yo y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Diventa oggetto di lazzo e facezia boccaccesca tra amici, chiacchiere da bar, primi incontri mattutini. Naturalmente viverlo in prima persona e subirlo equivale a una tragedia mortale. Alludo alla storia accaduta al vigile urbano imboscato tra le colline di San Colombano all'Ambro, in provincia di Milano, che è stato colto da un gruppo di cacciatori che tornava dopo una battuta di caccia e vede la macchina dei vigili urbani con strani sussulti in mezzo a un boschetto. Va lì e trova il vigile in atteggiamento non certo vigilante, con una signorina del posto, signora del posto, non sto bene. Insomma, oggi campeggia nel giornale questa storia del vigile urbano trovato con l'amante sull'auto di servizio. Naturalmente il capo dei vigili prende le distanze, dice: era la nostra pecora nera, non so se alludendo al contenuto dell'automobile, comunque dice: prenderemo provvedimenti. Però questo ci fa riflettere sui luoghi fatati della trasgressione amorosa. È chiaro che tutti hanno luoghi acconci per consumare i leciti connubi, i casti connubi, i proficui connubi, i mirati alla procreazione connubi, però esistono dei momenti di cerevolezza, di caduta, di uscita di senno in cui uomini e donne consumano amori di cui non vogliono che si faccia pubblicità. Questo è sempre accaduto dal nascere dei tempi, è sempre accaduto dal tempo che Adamo ed Eva si trovarono poi in contatto con una terza persona che poteva mettere in crisi la loro unione di coppia. Beh, e gli uomini hanno sempre scelto dei luoghi fatati per consumare questi momenti di piacevolezza, che sono più piacevoli quanto più sono proibiti, e che sono più piacevoli quanto più sono sottoposti allo stress della fuga, della clandestinità, del nascondimento. 800 24 00 24. Oggi parliamo di luoghi fatati dell'amore, fatati in quanto magici, in quanto pronti a scomparire, in quanto delle fenditure aperte nel quotidiano che ognuno vorrebbe aprire ma vorrebbe che si chiudessero immediatamente. Si vorrebbe avere un telecomando che ci faccia scomparire il mondo, gli affetti, le persone conosciute e anche la nostra coscienza in un momento particolare della giornata, e sia capace allo stesso tempo di farci riapparire tutto e fa scomparire quello che è accaduto in quel brevissimo lasso di tempo. Nicoletti, buongiorno. Allora, le donne tradiscono o andando a Ischia a fare le cure termali da sole, perché magari il marito è titolare d'azienda, oppure vanno anche in settimana nella casa di campagna con la scusa di aprire la casa e tradiscono settimanalmente, e magari il marito è in viaggio a Milano o a Roma e tradisce a sua volta. E il gioco è fatto. Non mandarmi in onda, per cortesia. Auguri, buona giornata. Non mi date dell'infame, ha detto per cortesia, mi ha detto ti obbligo a non mandarla in onda. Una cortesia si può fare o non si può fare. Comunque l'inizio di questa simpatica signora che comincia a gettare il velo. Siamo chiari, non vogliamo dire che sia bello, non vogliamo dire che è giusto farlo, non vogliamo dire che tutti debbano farlo. Ci asteniamo da un giudizio etico e morale, però noi vogliamo tracciare questa mattina una sorta di mappa psicogeografica delle derive della passione clandestina. Quali sono i luoghi attraverso cui si consumano questi veloci e fugaci appuntamenti amorosi? Allora, un amico che vuole rimanere anonimo ieri mi ha scritto su Facebook e mi ha dato una dritta. Mi ha descritto un luogo contemporaneo della fuga amorosa. È un bellissimo motel albergo vicino all'aeroporto di Linate a Milano, dove lui è andato, dice casualmente, per motivi di lavoro, e si è accorto che la notte non ci sta quasi nessuno. Il vero traffico di clienti è nella pausa pranzo. Arrivano tutti i signori della Milano che lavora, della Milano che produce, con la segretaria, con la collega d'ufficio. Arrivano con la macchina in un accoglientissimo parcheggio che affaccia direttamente nelle stanze. Le stanze sono bellissime, perché tutto sembrano fatte meno che per dormire. Il letto inesistente, ci sono delle specchiere, anche nella pubblicità che ho visto in internet, specchi altezza uomo. Le pareti sono ricoperte di specchi. Poi c'è la TV satellitare con tutti i canali zozzi gratis, è già qualcosa. Poi nel set con gli spazzolini monouso, saponcini, spugnetta per le scarpe, esiste anche l'innominabile oggetto gommoso per rapporti sicuri. In due ce ne stanno, ve lo posso dire. E poi la vasca a idromassaggio a due piazze, sì, perché la consumazione clandestina del cumenda milanese, dell'impiegato, del viaggiatore, del marito, della moglie, dello scapolo, del poveraccio, è sempre legata a qualcosa di un sogno acquatico. Un sogno acquatico è fortemente legato all'acquisto dell'idromassaggio, anche nei reality show televisivi, quando si va consumato il momento più alto della trasgressione sensuale e si va dentro l'idromassaggio. Non so perché oggi piace molto farlo a mollo, piace molto forse perché siamo così ormai avari di secrezioni che stare dentro una sorta di ammollo dà l'idea della catarsi, della pulizia di un atto che si sente nella coscienza forse non proprio pulito. Beh, 800 24 00 24, cominciamo a tracciare quella che è una mappa storica delle derive dell'amore. Non avendo io esperienza in questo, mi sono rivolto agli amici Paolo Corleoni e Fabrizio Intonti che, avendo molta esperienza, mi hanno aiutato a confezionare questa mappa storica delle derive amorose. I luoghi fatati dell'amore non sempre sono cornice di amori irraccontabili. Da sempre la passione clandestina si consuma sotto copertura. Oggi pare quasi assurdo, ma fino a qualche decennio fa, il congresso carnale, pre o extramatrimoniale, ha richiesto eroico ingegno e fervida fantasia per poter essere consumato. La favolistica rivierasca, spesso, narra i misteri della passione da stabilimento, senza mai entrare nei particolari tecnici. La villeggiatura più classica degli anni del boom era galeotta per una speculare occasione adulterina. Da una parte le signore e signorine sole ed impudicamente esposte alle tentazioni balneari, dall'altra i signori, lavoratori indefessi, ma liberi di dividere con colleghe nubili e spesso subordinate la tentatrice desolazione della città affocata dal clima e dal demone carnale. Anche il Sirtaki danza che ricorda comunque gli anni in cui sembravamo tutti felici e tutti ottimisti, che si contrappongono in maniera cruda con la contemporaneità che sembra improvvisamente che ci faccia dimenticare di un colpo il benessere raggiunto. Tutto ciò che noi abbiamo accumulato di certezza sembra essere precariamente messo in discussione. Beh, ricordiamoci che in quegli anni gli italiani cominciarono a stabilire delle nuove mappe geografiche della loro passione, proprio per il fatto che la villeggiatura diventava una sorta di fenomeno abbastanza diffuso, cominciava a essere standardizzata, cominciava a essere qualcosa di che tutti si potessero permettere. Il problema è la meravigliosa occasione di avere una coppia scoppiata di cui una, probabilmente sempre la moglie con i figli, stava in villeggiatura e lui doveva sempre fare qualcosa di urgentissimo, di importante città, dava una boccata d'aria e permetteva lo stabilire di questa sorta di ingegno adulterino. Già mi stanno arrivando dei messaggi sul nostro Facebook, che è la parte web dedicata agli ascoltatori che non ci ascoltano via radio. Poi ne parleremo diffusamente, anzi già vi annuncio che venerdì ci sarà un convegno alla Bicocca di Milano dedicata proprio alla rete e noi parteciperemo anche come Radio 24 attivamente, quindi tutti coloro che fanno parte della fetta di pubblico che ci segue attraverso sistemi non tradizionali sappia che venerdì ci sarà un appuntamento preciso proprio per loro. Intanto vi leggo il messaggio di Diana, che dice una cosa terrificante, orribile, che però ci fa interessare ancora di più a quelle che sono le nuove derive delle trasgressioni amorose. C'è un luogo per niente fatato del tradimento, è il letto coniugale, mentre la moglie è in clinica a partorire. In fondo, anche cinico, ma è niente più sicuro e comodo. Sì, perché la moglie sta lì partorendo, non può fare la sorpresa, e la casa è libera e tranquillamente chi sta meglio che a casa propria. Dunque, negli anni è successo a due mie amiche, mariti diversi. La prima amica pensava che lui fosse separato, ma la seconda sapeva tutto. Serena poi dice che il luogo fatato del tradimento è il tempo limitato. Sono i minuti contati, le ore grattate via dalla giornata. Laura, tutte donne stanno scrivendo. Meraviglioso avere questa letteratura psicogeografica trasgressiva proprio da parte di donne, che normalmente hanno sempre pochi strumenti per dichiarare liberamente la loro complicità e la loro parte. Un tradimento si fa in due, non tradiscono soltanto gli uomini, si tradisce in due, tradiscono in ugual misura sia uomini che donne. Ascensore, corridoio, ufficio, discoteca, coda in tangenziale, come farà? Discoteca, metropolitana, treno, villaggio vacanze, pensione della nonna, aeroporto aereo, questa mi sembra molto fantasiosa, qualsiasi luogo, visualizza, oltre che fatato quel tradimento, è il segreto della testa di chi lo compie, anche il posto più insignificante agli occhi degli altri diventa il regno fatato, magico e intrigante. Tra i luoghi della fornicazione balneare, il lettino pieghevole sulla spiaggia era utile per i primi avvicinamenti, con sottofondo di risacca. Ma per l'affondo finale occorreva un baluardo più intimo. Si passava quindi in cabina. Qui lo spazio a disposizione costringeva a consumazioni rigidamente verticali. Occorreva agilità e maestria per usare al meglio i pochi accessori a disposizione. Una panchetta o una sedia, una mensola, un materassino appoggiato alla parete. Ogni vanaglorioso e attempato zitellone elaborava un suo personale Kama Sutra da cabina. Aveva studiato ogni possibile variazione sul tema. Mi ricorda Fabrizio Intonti che ai tempi dei delitti seriali del mostro di Firenze ci fu una particolare improvvisa generosità da parte dei genitori di lasciare le case disponibili ai figli purché non andassero, come il vigile urbano che abbiamo citato prima, a consumare in macchina i luoghi segreti, i luoghi nascosti, i luoghi silvani. Lui ha incontrato i cacciatori, loro rischiavano di incontrare la banda degli amici delle merende armati di rasoio e trincetto. Davide, buongiorno. Ciao Gianluca. Allora, volevo raccontarti un episodio che mi è accaduto tanti anni fa nel 95 in Argentina, dove evidentemente non hanno il problema degli amici di merenda. Sì, l'Argentina, guarda, meno la citiamo in questi giorni meglio è, la gente già comincia a toccare ferro, prego, dai. Allora, niente, nel 95 insomma, sono stato per un anno per lavoro ad Córdoba in Argentina. Sì. E dopo qualche mese che ero lì ho conosciuto una ragazza. Insomma, ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a uscire insieme e sono iniziate le prime corvee amorose, però io ero in un hotel, tra l'altro un hotel costosissimo, non potevo portare persone in hotel e quindi avevo il problema di dove andare. Sennò che insomma, giorno parlando... Sì, che è il paradosso più atroce, uno sta in una stanza meravigliosa d'hotel e deve accontentarsi di andare in un sottoscala, ecco. Ecco, e insomma, praticamente io ne parlai con i miei colleghi di lavoro argentini, loro mi guardarono e dicevano, beh, ma la porti in albergo? Io ho detto, come in albergo? Ho detto, sì, ci sono degli alberghi apposta per andare a fare l'amore per i ragazzi. Io ho detto, ma che, cioè, mi ha detto, a parte mi sembra una cosa squallida. Loro mi hanno guardato. El Trombero, no, ma si sa, è notato. Si chiama El Trombero di solito, il genere. Allora mi hanno guardato e dice, scusa, ma perché voi italiani dove fate l'amore? Ha detto, ma guarda, se non hai una casa dei genitori o casa tua, di solito in macchina, dice, ma è una cosa squallida. Insomma, fatto sta che alla prima arrivò il momento e questa ragazza mi portò alle stesse in albergo. Tramite questo albergo sono degli alberghi fatti apposta in cui possono andare anche i minorenni, io mi vergognavo comunque. Anche i minorenni? Sì, non ti chiedono i documenti. E praticamente c'è il turno, viene chiamato, non ricordo se durava 40 minuti, e la cosa è carinissima perché entri dentro e pente poi c'è una specie di... Un po' affrettata la storia comunque. C'è una specie di passavivanda in cui tu entri nella camera e prende poi loro ti bussano. Cioè attraverso il passavivanda bisogna passare? No, c'è tipo una finestrella in cui la persona paghi a questa persona, la persona naturalmente non vede chi c'è nella stanza. Ah, come un confessionale? Tipo confessionale, non vede chi c'è nella stanza e diciamo che 10 minuti prima della fine del turno ti telefonano e quindi tu puoi o rilanciare con un altro turno oppure praticamente devi lasciare la stanza. Cioè chiamano in camera dicendo è finita. Poi praticamente la cosa era simpatica perché ce ne sono naturalmente di tutti i gusti e di tutti i prezzi. Mi colpì uno vicino all'aeroporto che addirittura si entrava con la macchina e la cosa particolarissima era praticamente che era un po' come i motel americani, cioè si entrava con la macchina e c'era una specie di garage. La serranda per chiudere il garage non chiudeva completamente il garage, ma c'era una serranda che praticamente era parziale e chiudeva soltanto, nascondeva soltanto la targa della macchina. E all'interno del garage si saliva e si entrava in camera. È qualcosa tipo quel motel milanese che ho descritto prima, mi hanno detto che sono dei sistemi di mascheramento, che è la soluzione tecnologica e standard del luogo dell'amore. Però invece, ti saluto, mi scrive Anna su Facebook e mi dice qualcosa di molto più ingegnoso. Dice un aneddoto erotico goderecce, te lo racconto io. Tempo fa fece una ricerca di archeologia industriale sul mattatoio di Viterbo. La carta, dalle carte delle delibere comunali e dai ritagli giornale veniva fuori che il mattatoio era luogo di incontri carnali durante le ore serali. Carne su carne, naturalmente. Esiste un film di Alba Paretti, sfortunatissimo film, Il macellaio, dove lei consuma feroci amplessi sopra le bistecche e quarti di bue. Veniva fuori il mattatoio era luogo di incontri carnali durante le ore serali. Per questo fu recintato da grandi mura per impedire questo indecoroso uso. E fu fatto anche un custode, fu istituito anche un custode. Il custode del mattatoio che guardava le carni morte ma che non poteva vedere le carni vive. Immagina accoppiarsi dalle carcasse maiale penzolanti tra le rigaglie di pollo. Che spettacolo. In città solo la benevolenza del clima permetteva avventure corsare. A tal scopo il possesso di un mezzo di locomozione corrispondeva nei felici anni del boom alla conquista della più efficace protesi erotica. Muoversi in velocità significava delocalizzare la consumazione sessuale rispetto alle aree di maggior controllo. Permetteva inoltre la massima ottimizzazione delle rare finestre temporali dedicabili alla trasgressione. Insomma, in pochi minuti dal centro alla periferia. Dal cemento ai prati, ai cespugli, ai residui bucolici che l'abitato non aveva ancora inghiottito. Ancor prima dell'utilitaria, a questa funzione fu impropriamente adibito lo scooter. Mi scrive Simona, un manager faentino tradiva con me la moglie nel luogo dei promessi sposi, Pescarenico, sul lago di Como, paradossale ma divertente. Vedo che l'attenzione storica ai luoghi fatali dell'amore evita di parlare dei luoghi contemporanei dell'amore, ma 800240024 è il numero per fare questa sorta di confessione. Non è detto che ne siate voi personalmente coinvolti, ma casomai l'avete sentito dire, l'avete letto da qualche parte, ve lo hanno raccontato. È interessante capire qual è la deriva, qual è la mutazione, qual è il cambio e cosa accadrà d'ora in poi, visto che le angosce molte volte allontanano da noi la voglia e le tentazioni di accoppiamenti fugaci, clandestini e piacevoli. È proprio vero che la situazione in generale tiene lontane le menti, le fantasie dal desiderio di pensare soltanto, immaginare i luoghi fatali dell'amore, dell'amore clandestino. 800240024, vi leggo qualche messaggio, mi dice Michele, i ponti, collezionavo i ponti. Quando c'erano i vecchi taxi neri col divisorio, bastava trovare la posizione giusta e l'afgano al volante sentiva ma non vedeva. Immagino questo non è accaduto in Italia. Per anni trovavo amiche che chiedevano consigli per farlo. Lo davo i ponti, feci tutti. Vabbè, questo girava i ponti con i vecchi taxi inglesi. Maria Giovanna dice, mi viene in mente il treno dei cornuti che arrivava ogni venerdì nel paesino di mare, battezzato così dai bagnanti. Alan, un altro luogo classico e letterario per la trasgressione è il cimitero. Conosco un cimitero di caduti polacchi con erbette tagliate all'inglese e con bianche lapide muti osservatrici dei peccati dei mortali. E noi continuiamo col nostro excursus storico nei luoghi fatati o nei mezzi fatati dell'amore clandestino dagli anni del boom ai giorni nostri. I primi motom con il motore a sospensione elastica, i galletto della Guzzi, le lambretta a due volumi erano perfetti per l'immediato teletrasporto dal luogo della pudicizia a quello dello scatenamento sessuale. La disponibilità del pilota a tale pruriginosa applicazione era segnalata da un accessorio, apparentemente innocuo, ma che nel linguaggio segreto delle più ipocrite morigeratezze suonava lubrico come l'esposizione in vereconda di un satiro boschivo. Si trattava di un semplice plaid scozzese, nulla di più che una copertina arrotolata, piegata con cura e sistemata sul sellino con un paio di lacci di gomma, quelli che si usavano a scuola per tenere insieme i libri. Nemmeno di lana, spesso di velcren o altri succedanei, in gran voga in quei tempi per le loro caratteristiche di robustezza e di tenuta alle macchie. La copertina scozzese arrotolata sulla motocicletta è uno dei ricordi più vividi di chi ha vissuto gli anni 60 e 70, le sue giovanili pulsioni, e naturalmente poi Paolo Corleone ha saputo bene come ridare il clima. Scusate, ho detto sì, Paolo Collone ha saputo bene come ridare il clima musicale a questa mia sensazione. Vedo anche una sorta di reazione nel pubblico che scrive dalla rete rispetto all'idea stessa di focalizzare l'attenzione sul tradimento. Emiliano dice: che tristezza il tradimento, una contraddizione delle proprie decisioni. Se si è deciso di dedicarsi a una persona, bisogna saperlo fare al meglio. Se poi non si prova più passione, si cambia. Emiliano probabilmente ha ancora poca pratica di frequentazioni affettive a lungo termine. Chiara dice: che noia, almeno con i giudizi gli animi si scaldano. Vabbè, cerchiamo almeno di non cadere nella banalità di macchine e parcheggi. Un po' di fantasia, per favore. Non confondiamo la magia con qualcosa di reale e sudaticcio. Si tende a dissociare l'idea della corporeità all'idea della piacevolezza, della fuga amorosa, della tensione romantica. Ma l'alcova semovente di cui si parla con grande insistenza nei messaggi, naturalmente, ha sue radici storiche e noi ve le raccontiamo. Beh, quella copertina idrorepellente era il segnale che nulla sarebbe mancato nel momento dell'estrema bisogna. Impenetrabile al rovo, allo scarafaggio, all'erba e all'umidità, si sarebbe spiegata gloriosa sul praticello dell'amore. Poi le cose migliorarono. Arrivò la 600, la 500 e il Mario Tanzi, inventore di Fidenza, che brevettò i sedili ribaltabili. Chi non se li poteva permettere di fabbrica ricorreva a meccanici complici che per pochi soldi facevano la modifica per trasformare l'utilitaria in alcova semovente. I sedili ribaltabili furono il congegno che determinò il più alto tasso di perdite del pulzellaggio e l'onore coniugale nei decenni successivi. L'anno 1978, mi pare, trasformare una 500 con i ribaltabili costava 25.000 lire, non era una gran cifra, diciamo che la spesa era compensata poi dall'abuso che si faceva di quella macchina. Angela, buongiorno. Angela? Sì, buongiorno. Buongiorno. A me dispiace molto, ho grande dolore per quello che ho fatto, ho risvegliato un suo ricordo doloroso. Sì, questo è vero, perché la descrizione è dettagliatissima. Ha riconosciuto il luogo? Sì, certo. Certo, perché lei allude a quell'hotel che mi ha descritto, sì, al sì, telefono un collega. Vicino all'Inate. Non sì, facciamo sì, nomi. No, certo. Non... Ce ne sono tanti, poi mica è uno solo. Sì, perché ma come l'ha descritto, con ingresso alle stanze, eccetera. Gli specchi? Sì, certo, gli specchi e tutto il resto, anche perché io, curiosità e donne, mi volevo fare ancora più male, sono andata a vederlo. Ma cosa accadde in quel motel? Accadeva che mio marito si prendeva dei pomeriggi... Di lavoro? Di lavoro, no? Oppure di colazione inventate con qualche amico delle merende, come le chiamavo io poi. Naturalmente, poi succede sempre un niente che si apre tutto un altro mondo, no? E quindi... Ma con chi andavano? Con le colleghe d'ufficio, le segretarie? No, con colleghe d'ufficio no, perché a parte il fatto che io lavoro nella stessa azienda, quindi nell'azienda nostra... Quindi era ad altissimo rischio l'adulterio? Ha capito il discorso. Beh, però bisogna apprezzare il coraggio, perché adulterare con la moglie nello stesso ufficio, in orario d'ufficio, è abbastanza complicato. Ma il suo lavoro lo porta, diciamo, a essere fuori, quindi alle colazioni, eccetera. E quindi lei ha scoperto che andavano tutti nel motel con gli specchi? Sì, appunto, vede... un bel motel, bellissimo, anche perché... Come ha fatto a scoprirlo? No, così diamo anche delle chiavi di servizio. Come lo fa? Sono quelle cose stupide che nella vita... La carta di credito? Prego? Con la carta di credito? No, anche perché io devo dire la verità, ho sempre pensato che... anche perché mio marito è sempre stato un uomo molto presente, noi abbiamo sempre fatto tutto insieme. Sì, vabbè, quello è normale, signora. Si chiamano fughe fatali proprio perché quando uno torna è come se non fosse successo niente. Certo, no. Sì, ma come l'ha scoperto? Signora, ci deve dare delle istruzioni però, perché sennò non svolgiamo una funzione di servizio questa mattina. Non avevo considerato determinati pomeriggi, capisci, l'ora di colazione, eccetera, tutte queste cose, ma, niente, dalla fattura delle telefonate. Ecco, lo sbaglio è stato fatto lasciando una traccia digitale. Sì, certo. E lei è andata masochisticamente a vedere il luogo dove suo marito consumava l'adulterio? Dopo sì. Da sola c'è andata o si è fatta accompagnare? Da sola, no, per rendere pan per focaccia. Ho preso una stanza e... Cioè da sola si è presa una stanza? Sì. Ma scusi, l'hanno guardata un po'? No, sono proprio, voglio dire, asettici queste persone. No, perché le dico un altro episodio che mi sono tenuto prima per pudicizia. Allora, l'amico mio mi ha detto che rincasando in albergo a notte tarda, colse signora in ghepiere e camicia di fronte alla porta di camera dicendo: ciao, come stai? Improvvisamente mi sono trovata sola, vieni a bere qualcosa e via dicendo. Capita che in questi luoghi esistano anche strani incroci, quindi andando da sola rischiava ancora di più lei, lo sa. Ma non credo, perché non c'è bisogno, lei deve solo entrare nella hall, dare il documento e le dicono quale stanza, e quindi entra dal giardinetto, per cui... E come ha passato la notte da sola nel luogo del... No, nella notte no, sono andata di giorno, sono stata lì mezz'ora a schiaffeggiarmi, eccetera. Ha fatto l'idromassaggio? Ecco. Ma c'è l'idromassaggio? Sì, beh, in quello c'era, la vasca c'era. A due piazze? No, era una vasca semplice, una persona, poi sai che comunque lo spazio non è quello che interessa, ma tutto il resto... No, ci pensa, lei è andata pensando suo marito dentro l'idromassaggio con il frutto dell'adulterio, ma veramente perché si è fatta così male? No, aveva altri luoghi, voglio dire, in quella stanza, anzi, stanza poi che è una bella stanza divisa con, cioè, tutto, voglio dire, il tavolo con la sedia, perché uno se vuole può mangiare anche in camera, cioè, sì, no, ma insomma si è trattato molto bene. Senta, lo ha perdonato? L'ho perdonato relativamente, non, no, direi che... Ma state insieme ancora? Siamo allo estremo. Cioè state insieme, lei fa quella sorta di terrificante chiusura di ogni contatto affettivo, stiamo insieme però io sto per conto mio. Perché credo che, qua mi si dice, di solito si dice che si perdona e non si dimentica, no? Vabbè, esiste anche una possibilità che non posso suggerirle, perché naturalmente non si fa, è brutto farlo alla radio, e poi magari uno si sente meglio perché ha reso pan per focaccia. Grazie signora. Siamo sicuri che l'aver aiutato la nostra amica ascoltatrice a elaborare questo momento di dolore e scherzandoci sopra abbiamo in parte allontanato da lei il fantasma di questo incubo del tradimento consumato poi nello stesso ufficio. 800 24 0024, stiamo parlando dei luoghi fatati della passione, che più andiamo avanti più ci rendiamo conto che non sono affatto fatati, sono luoghi pieni di ansia, pieni di insidie, luoghi in cui molte volte ci si domanda se il piacere della trasgressione consumata abbia valso le ansie, le angosce, i rischi che sono corti. Poi mi scrive Massimiliana, che è una donna romantica da Facebook, ma perché stiamo riducendo, dice Massimiliana, il tradimento al solo incontro sessuale? Non parlo di cena, nemmeno di weekend con l'amante, parlo di regolare doppia vita con l'amante. E allora i luoghi fatati diventano le occasioni di incontro con amici conoscenti della coppia clandestina, che condividono con loro momenti di clandestina quotidianità. Questo è un altro argomento che vorrei toccare. I doppi matrimoni, la bigamia nascosta e clandestina, che io trovo tristerrima, deleteria, però tutto può accadere, non prendiamo mai posizioni di giudizio nei confronti degli altri. Noi parliamo di fugaci e insopprimibili momenti di passione di cui poi magari ci si pente 50 volte, che però sembra impossibile o difficilissimo o quasi una benedizione del fatto che ci possano accadere e sfuggirne. Questo di cui dice Massimiliano invece è una costante ipocrisia nei confronti del mondo, le coppie clandestine che si frequentano, le mogli sono amiche, gli amici sono amici, e esiste una letteratura, una trattatistica su questo, ma di cui probabilmente faremo altro tipo di trasmissione. Ma adesso mi piacerebbe, per sdrammatizzare ulteriormente quello di cui stiamo parlando, è roba che accade, cosa che accade, non è detto che sia giusto o sia necessario che accada, ma quando accade nei termini in cui accadde a ragionier Ugo Fantozzi, quando finalmente la signorina Silvani decise di concedergli, forse fa parte di quella letteratura del della riflessione su cui noi dovremmo comunque fare un attimo di attenzione. Pensavo che il suo fosse un matrimonio moderno. È stato il più grande errore della mia vita. Un fallimento. Signorina. Finito, è finito. Sai cosa faccio? No. Non torno a casa a dormire, eh? Vado in albergo, vado. Brava. E scappo con il primo venuto. Per superare Calboni, Fantozzi scese al più lussuoso albergo di Capri. Anche perché era l'unico aperto d'inverno. Beh, io mi siedo un attimo, va di lei al burro. Agli ordini, signorina. Buongiorno. Scusi, hanno per caso delle singole per due? Abbiamo solo appartamenti, signore. Ma quanto costano? 60.000. Solo? Fantozzi pensò 60.000 al mese. Signore, se vuole qualcosa di meglio abbiamo l'appartamento reale, 100.000. Io te lo prendo! L'ho fissato! Va bene. È mio, eh! Non lo date a nessuno, eh! Fantozzi va e consacra tutti i luoghi comuni più terrificanti del fantozzismo, quindi del vorrei ma non posto, dell'approssimazione, della goffaggine di italiano medio anche nel momento della trasgressione. Porta la signorina Silvani nel miglior albergo di Capri, fuori stagione, prende la più lussuosa suite e poi naturalmente, come si sa, non consumerà nulla. Certo che un appartamento come questo per 100.000 lire proprio da 1.000 una notte. Anche troppo. E qui abbiamo la camera da letto. Oh, non c'è male. I due bagni. Beh, sì, due. Per la cena i signori scendono in salone oppure preferiscono essere serviti qua? Qui, qui, con le candele, una cenetta intima in camera. No, no, guardi, per me né qui né giù. Figuriamoci, stasera non mi entrerebbe un cappero. Il mio unico sogno è quello di infilarmi qui, in questo letto. Nel letto? Niente capperi, neppure io voglio i capperi. Via, se ne vadi, se ne va. Signorina. Dico, Fantozzi, ma cosa si è messo in testa stasera? Come? Guardi che Calboni era quello che era. Sì. Però per delicatezza la prima notte di nozze ha dormito in un'altra stanza. Non vorrà mica essere da meno. Sì. Già no. E allora vadi a dormire in un'altra stanza. Sì. Vadi. Sì. Buongiorno Nicola. Sono io. Fra i suoi clienti quanti Fantozzi le è capitato di incontrare? Complimenti per la trasmissione. Fantozzi tanti. Anzi, le devo dire... Lei è un direttore d'albergo? Esatto. Devo dire che adesso, da quando sto lavorando, la clientela di persone che utilizzano per questo scopo, chiamato tra virgolette day use... Sì, già l'ha detto prima dicendo scopo, comunque va bene. praticamente è tantissimo, soprattutto fra manager e segretarie, negli orari pomeridiani. Scegliono gli alberghi muniti di televisori satellitari, comodi, vicino alle autostrade. Ma perché? Devono vedere anche il film zozzo, non gli basta la segretaria? Questo vorrei capire. Purtroppo sì, e le dico una cosa simpatica. E lei li mette gratuiti anche lei i film zozzo? No, questo no. Loro prendono le business, degli use, le segretarie, peraltro sono segretarie, conoscono bene, si fidelizzano all'albergo perché si fidano del portiere, lasciano la mancia, chiedono lo spumante in camera... peraltro mi è capitata una situazione simpatica. Lei in che area si colloca, possiamo dire? Modena, Bologna, ecco. Un albergo importante. Il triangolo delle Bermuda. È un albergo importante. No, non facciamo nomi, se no. Non facciamo nomi assolutamente. Ci però instigano. Loro prediligono alberghi di catena internazionale con grossi servizi, accessori, quindi... E cosa viene richiesto? Perché la vasca idromassaggio mi sembra sia un must inalienabile. Sì, vasca idromassaggio, letto comodo, camera con bagno, con accessori tipo, non si usano più le saponette, ma dispenser, Davolux, queste diciamo... Sì, che sembra una cosa, poi è la stessa, anzi per voi costa anche meno tutto sommato, infatti, perché quindi, non pagate il packaging, quindi buttate infatti, dentro un bagno schiuma, quello che si compra a lattine da 10 litri e loro pensano che è una grande raffinatezza. Non hanno problemi di spesa perché pagano un carto di credito aziendali. Quindi ma resta traccia però, come giustificano con l'azienda? Loro chiedono poi ovviamente... La voce di spesa cos'è? No, loro praticamente alla partenza, praticamente loro vogliono una regolare fattura, poi giustificheranno che sono stati lì perché c'era un meeting, ma vedo che sono manager di solito non dimostrano molto. Sì, sono a piedi lista, certo. Esatto. La cosa simpatica che volevo dire, io io sto pensando in questo momento i sudori freddi di tanta gente ci sta ascoltando, no, andiamo avanti che mi diverto. No, ma mi dispiace perché comunque sono discreto, professionalmente. No, mica facciamo nomi. Assolutamente no, altrimenti dovremmo stilare una lista lunghissima. Però no, comunque... fermiamoci qua, noi voglio sapere come è accessoriata la camera, visto che noi abbiamo parlato della copertina in velcren degli anni 60, vediamo oggi qual è stato, qual è l'esito contemporaneo. Allora, idromassaggio. Contemporaneo, scusi se l'ho interrotta, sì. Soprattutto dico una cosa simpatica che mi viene in mente e che può far sorridere. Sono le donne molto affezionate ad oggetti che utilizzano e qualora loro le dovessero perdere, purtroppo per la privacy noi non possiamo spedirle, loro vengono personalmente, ci chiamano, ci tengo a quell'oggetto, è stato smarrito, noi siamo abbastanza imbarazzati. Quando quindi c'è un'oggettistica smarrita notevole. Se dovessero perdere non è che si preoccupano di comprarne un altro, no, sono abbastanza vogliono affezionate. Quello. Esattamente, chiamano. Beh, è un portafortuna probabilmente. È incredibile. E poi io mi sono trovato di fronte ad oggetti di tutti i tipi e a volte siamo anche un po' imbarazzati. Io dal punto di vista non voglio essere... Ma voi cosa avete? Una stanza segreta dove tenete l'oggettistica dimenticata? Noi abbiamo, sono i Lost and Found, li mettiamo da parte, loro con molta cura e attenzione ci chiedono di poterli conservare e che... Teneteli da parte? Sì, esatto, di non assolutamente... Magari di non vi chiedono di togliere le pile perché tante volte poi buttano l'acido e potrebbero rovinarsi. Esattamente, allora io sono abbastanza, diciamo, vengo da una stazione cattolica molto forte. Ma però tutti questo... lo siamo, ma questo noi stiamo osservando, guardi, lo dico perché per chi ci ascolta, stiamo osservando dei fenomeni della contemporaneità, noi siamo come dei chirurghi, stiamo aprendo e vedendo cosa c'è dentro. Mica è un modo veramente interessante perché poi sono quelle cose che sembrano che non ci sono, ma che hanno una loro realtà abbastanza viva. E basta, e secondo me l'aspetto alberghiero, perché soprattutto fra persone di un certo, diciamo, target culturale, target economico. Allora senta Nicola, ci fermiamo qua perché la trasmissione è finita. Torneremo su questo aspetto di come siamo visti da chi ci vede nei momenti in cui non vorremmo essere visti. Una conclusione, che la tecnologia impera. Oggi sembra che i luoghi fatali dell'amore non siano fatali se, naturalmente, uno non è accessoriato. Se casomai cadesse la corrente elettrica, casomai non ci fossero più batterie per ricarica, casomai non ci fosse più televisione satellitare, cosa farebbero quelle persone con la loro affascinante segretaria in quelle tecnologiche stanze spente dall'energia che dà loro passione? La domanda è senza risposta e ci sentiamo domani. Email melog@radio24.it. Melog va in replica questa sera alle 22:00.